Europa 24. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio da Daniele Biacchesi. In primo piano l'emergenza migranti con l'Ungheria, che ha chiesto di essere cancellata dai paesi beneficiari. Lo è, lo ricordo, insieme a Grecia e Italia, dei 120.000 ricollocamenti intra-UE proposti da Bruxelles. La richiesta è stata presentata alla riunione degli ambasciatori dei 28 che torneranno a vedersi dopodomani in vista del Consiglio degli Affari Interni di lunedì. Diplomazie al lavoro in vista del Consiglio Affari Interni dei 28 di lunedì prossimo. Oggi il focus è a Praga, dove Jean Assenborn, in qualità di rappresentante della presidenza di turno dell'Unione Europea, il Lussemburgo, e il ministro degli esteri tedesco Steinmeier si vedranno con gli omologhi del cosiddetto gruppo di Visegrad, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Polonia. L'intesa sulle quote obbligatorie per il ricollocamento intra-Unione Europea proposto da Jean-Claude Juncker appare più vicina. Lo zoccolo duro dei falchi dell'Est sembra aver perso infatti uno dei suoi elementi principali, ossia la Polonia, la cui linea appare ora più morbida. Intanto almeno 1.000 persone si sono messe in marcia dall'Ungheria verso l'Austria da quando Vienna ha sospeso il traffico dei treni per motivi organizzativi e di congestione delle linee. L'esodo non si placa, sono 7.600 le persone che nell'ultima manciata di ore ha passato il confine dalla Grecia alla Macedonia, secondo i dati di UNHCR. Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 Ore. Intanto critiche al meccanismo delle quote arrivano anche dalla Bulgaria, anche se ufficialmente non è tra quei paesi totalmente ostili alla cosiddetta linea di redistribuzione. Ma non tiene conto della situazione attuale, contesta il viceministro all'interno Filip Gunay ai microfoni della nostra inviata Sofia Raffaella Calandra. La posizione di principio del governo bulgaro della Bulgaria è quello di una divisione solidale. Ci sono però delle preoccupazioni del governo bulgaro rispetto al modo con cui questa idea è stata proposta. La prima riguarda le modalità di calcolo sulla distribuzione eventuale di queste quote all'interno, diciamo, dell'Unione Europea. Questi calcoli sono stati effettuati in un modo che non tiene conto della situazione attuale, nel senso che sono stati presi i numeri degli ultimi 5 anni, dal 2010 al 2015. Per esempio la Bulgaria fino al 2013 praticamente non aveva richieste di asilo, oggi invece sono aumentate in modo esponenziale, e tra l'altro questi calcoli, diciamo, sono stati fatti dall'Unione, dalla Commissione Europea, senza un vero dialogo con i Paesi membri. E dalla Bulgaria è firmato anche il reportage in onda domattina, lo ricordo, su Radio 24. L'UNICEF ha accolto in modo positivo gli impegni crescenti dei leader europei per sostenere i rifugiati e i migranti, impegni che secondo l'UNICEF dovrebbero adesso dare il via ad azioni urgenti da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea per proteggere pienamente i diritti dei bambini. Fino ad ora, per quest'anno, i bambini costituiscono già un quarto di tutte le persone alla ricerca di asilo in Europa. Nei primi 6 mesi del 2015, 106.000 bambini hanno cercato asilo nell'Unione Europea, la maggior parte provengono da Siria, Iraq, Afghanistan, con un incremento di quasi il 75% rispetto al 2014. Infine la Commissione ha avviato 2 consultazioni pubbliche, una sulle necessità di connessione a banda larga, l'altra per avere valutazioni sullo stato attuale delle reti di telecomunicazioni. Bruxelles in sostanza vuole avere riscontri a tutti i livelli, dal pubblico generale alle imprese di tutti i settori, alle istituzioni, le organizzazioni non governative, studiosi o ricercatori. È tutto, quando sono le 14:06 minuti vi ha parlato Daniele Biacchesi. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.